Investire informati. Abbiamo fatto un lungo percorso da dicembre toccando le diverse sfaccettature del mondo del risparmio e soprattutto del nostro approccio all'investimento. Ci siamo dedicati all'analisi dell'andamento dei mercati finanziari, abbiamo approfondito le ragioni dei record dei mercati, del crollo dei rendimenti, delle obbligazioni, ma poi abbiamo ragionato anche a lungo sulle attitudini dei risparmiatori italiani, molto portati a loro volta a ragionare in un'ottica di breve termine e con più difficoltà a ragionare su logiche di lungo periodo. Abbiamo capito stamattina che, insomma, la nostra cabina di regia, così come abbiamo ribattezzato il nostro cervello, possiamo cambiare un po' di questi atteggiamenti, per cui abbiamo chiesto al professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo e presidente di Asso Menzana, di rimanere con noi e di interagire con le riflessioni che faremo con Andrea Pennacchi, amministratore delegato e direttore generale di Ubipro America SGR. Ben ritrovato. Grazie, l'abbiamo già sentita prima con qualche blitz nella prima parte della trasmissione, perché il tema che abbiamo affrontato col professor Iannoccari piace molto al mondo del risparmio in questo momento. Guardarsi in un'ottica di lungo periodo, un esercizio per il cervello difficilissimo, ma che non possiamo oggi permetterci di rinviare. Questo è stato anche il grande argomento che abbiamo affrontato l'ultima volta che abbiamo avuto il piacere di ospitare Andrea Pennacchia, che è stato proprio in occasione del Salone del Risparmio 2 settimane fa, quando abbiamo parlato del nostro io futuro in occasione della presentazione della vostra ricerca, che ha voluto essere, ricordiamolo Pennacchia, proprio un invito, una sollecitazione a guardarsi in prospettiva, a gettare lo sguardo in avanti nel tempo, come saremo fra 10, 15, 20 anni, non solo dal punto di vista estetico, ma anche in termini di nostre dove abiteremo, certo, con che pensione, quale sarà il nostro tenore di vita, quali saranno le nostre esigenze finanziarie. Come dire, immagine che il nostro cervello in questo momento non accetta tanto, quando abbiamo 40-45 anni, di visualizzare. Non è un esercizio difficile per il cervello anche quello. Certo, certo. Allora, noi in realtà, tutti noi sappiamo intuitivamente che guardare al futuro, pensare al futuro è necessario e molto importante. Dal punto di vista finanziario, quando si viene ai propri investimenti, ai propri risparmi, questo è estremamente importante, perché saper mettere a fuoco sostanzialmente il futuro vuol dire saper mettere a fuoco i propri progetti, quindi saper pianificare per tempo e fare in modo che questi progetti possano essere realizzati. Questo è un elemento essenziale che abbiamo toccato già altre volte: l'importanza del risparmio passo dopo passo, l'importanza dell'investimento nel lungo periodo. In modo molto sintetico, richiamo quello che avevamo un po', esatto, detto, anche sì, alcuni elementi di base. Allora, noi abbiamo effettuato questa ricerca su un campione rilevante, diciamo, della popolazione italiana. L'abbiamo fatto sia con dei focus, diciamo, dei focus group, quindi parlando con le persone, ma anche con delle interviste. Quello che è emerso è che di fatto l'orizzonte temporale che le persone vedono davanti a sé, che è emerso un po' anche prima, è abbastanza breve, cioè soltanto 3 intervistati su 10 guardano fino a un orizzonte massimo di 5 anni, 6 su 10 arrivano a 10 anni, ma solo 1 su 10 riesce a guardare oltre i 20 anni. Ora, noi prima abbiamo sentito la signora Elsa, che ha 82 anni, che è esattamente l'età media attualmente della popolazione italiana. Ecco, attenzione, perché una porzione importante del nostro futuro per una persona che ha 45 anni potrebbe essere fuori, come dire, dal radar quando si ha un orizzonte solo di 5 o 10 anni. Certo. Allora, intanto mi raccomando, queste prime informazioni che ci ha dato Andrea Pennacchia, tenetele a mente, incidetele sulla vostra pietra mentale, perché poi ci ritorneremo su questi argomenti, e queste informazioni saranno anche l'oggetto del nostro quizzettone nella seconda parte del programma, per cui ricordate. Datevi, naturalmente, per premiarvi, poi se vi sarete ricordati tutto apriremo la nostra libreria. Intanto sentirei il professore Iannoccari. Giulio da Savona, che è caduto, oh mannaggia, perché voleva raccontarci che legge e scrive parole al contrario, fa parole crociate, quindi insomma fa dei buoni esercizi per la propria materia grigia, per la sua cabina di regia. Mi sarebbe piaciuto chiedergli sul tema del risparmio come si comporta con questi 100 euro, cosa vorrebbe fare. Gli esercizi che propone l'ascoltatore sono, immagino, molto diffusi per l'allenamento del cervello. Sì. Sì, sicuramente sono quelli che abbiamo a disposizione più facilmente, che riusciamo a svolgere. Teniamo conto che, così come l'esempio che faceva dei muscoli all'inizio, anche il cervello ha tanti distretti, per cui diciamo, limitarci a fare degli esercizi di memoria piuttosto che di fluenza, che di ragionamento, va benissimo. Teniamo conto che ci sono anche altre abilità, per esempio il linguaggio. Ecco, allenare il linguaggio, velocizzarlo, trovare la parola giusta al momento giusto, anche la creatività, come cosa facciamo da uno spunto, come possiamo arricchire una scena partendo per esempio da un fiore, oppure anche la velocità di elaborazione delle informazioni, quanto siamo veloci a processare i nostri pensieri. Allora, devo andare in pausa, le chiedo se può trasferirsi con noi nella seconda parte del programma, a meno che non debba andare via, glielo sto chiedendo in diretta, perché voglio che ci faccia magari solo nei primi due minuti l'esercizio per allenare la memoria ed aiutarci a risparmiare. So che lei ci ha portato un esercizio specifico, lo facciamo dopo? Come no? A tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Cuore e denari. Eccoci ritrovati nella nostra bellissima puntata di questa mattina. Siamo naturalmente a giovedì e, come sapete, ogni giovedì è l'appuntamento con questo appuntamento. Investire informati. Abbiamo stabilito stamattina una bellissima relazione, in realtà non l'abbiamo scoperta noi, fra finanza e psicologia. Con noi è rimasto il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, presidente di Assomensane, ed è con noi anche Andrea Pennacchi, amministratore delegato e direttore generale di Ubipro America SGR. Stiamo facendo proprio con Andrea Pennacchi un lungo percorso dedicato al lungo periodo. Ho sintetizzato appunto tutto quello che ci siamo detti in queste settimane, abbiamo ripreso un po' il tema che abbiamo affrontato nell'ultima puntata in cui lei è stato nostro ospite. Abbiamo presentato la vostra ricerca Io Futuro, prima abbiamo ricordato che cosa avevate scoperto, Andrea Pennacchi, e io mi ricordo che avevamo concluso in quell'occasione una questione molto importante, che una volta messi di fronte alle evidenze relative al fatto che le persone considerano naturalmente il loro futuro e le loro esigenze molto importanti, ma fanno molta fatica a quantificare quelle che saranno le loro esigenze finanziarie di un determinato preciso momento, appunto, della loro vita futura. Le persone sono consapevoli che praticamente c'è una non sostenibilità futura dei loro progetti secondo i piani di accumulo che hanno in corso, e però poi non appena riescono ad avere questa chiara percezione di questa situazione esprimono subito una disponibilità a rivedere la propria pianificazione finanziaria, fino a raddoppiare addirittura il loro risparmio. Quindi scatta qualcosa nel loro cervello che sarà poi interessante analizzare col professor Iannoccari. Esattamente che cosa succede? Assolutamente sì, nella nostra ricerca di fatto abbiamo visto che, riflettendo sui temi della progettualità futura, quindi noi abbiamo realizzato un percorso con questi nostri intervistati, quasi 9 su 10, l'87%, si è reso conto nel percorso che correva il rischio di realizzare solo in parte i propri futuri, i propri progetti. Addirittura il 74%, quindi 7 su 10, al tempo stesso riconosceva l'importanza estrema e l'urgenza di risparmiare in un'ottica futura. Ecco, a questo punto noi abbiamo cercato di capire quali erano un po' le barriere. La barriera principale è proprio la difficoltà naturale che noi abbiamo nell'effettuare proiezioni economiche che vanno molto in là nel tempo. Questa è una cosa naturale perché la mente umana ragiona in modo lineare. Se noi pensiamo qual è un programma di accumulazione, il suo effetto in un orizzonte di 20 anni o di 30 anni, facciamo fatica proprio a calcolarlo. In più c'è l'effetto, diciamo, del tempo, e quindi del valore del tempo, che abbiamo visto in un'altra nostra puntata, sì, che in realtà è ancora più difficile da calcolare. Allora, quello che abbiamo visto è che una persona su due non era in grado assolutamente di quantificare i propri progetti futuri, e anche chi riusciva a farlo, quindi l'altra persona su due, in realtà sottostimava fortemente. Addirittura su progetti di lungo periodo, tipo mantenere il proprio tenore di vita piuttosto che avere un'integrazione in una fase molto lontana della vita, si metteva da parte quello che basta per un'autonomia di 3-5 anni, che non è quella che bisogna avere su un progetto, certo, di ampio respiro. La difficoltà più grande per molti risiede nel capire che, tagliando qualche spesuccia, certamente fra quelle inutili, magari, che ne so, una birra, qualche caffè al bar, dottor Pennacchia, magari una persona si può ricavare un piccolo budget destinato ad una accumulazione utile. È così o è una considerazione banale? No, allora è assolutamente così, ricollegandomi un po' anche all'esempio che abbiamo fatto prima con l'ascoltatrice. La cosa importante è pensare al risparmio non come rinuncia, ma come ha un progetto. Qui è molto bello il parallelo che si può fare con la dieta. Noi abbiamo questa, come dire, questa tendenza a voler essere in forma, a sentirci, certo, bene, al wellness. Chiaramente la dieta la posso vivere in due modi: la posso vivere come una privazione o come un qualcosa invece che mi dà un... Questo termine viene generalmente associato alla rinuncia, al sacrificio e alla privazione. Noi con Cuore Denari Nicoletta da tantissimi anni, in particolar modo, stiamo cercando di far capire che il termine dieta invece è concepito come qualcosa che ha a che fare con lo stile di vita. E quindi con la finanza che relazione stabiliamo? Allora, facciamo anche un esempio, perché parliamo di dieta finanziaria a questo punto. Come ci Premesso piace. Che la dieta non deve mai essere una dieta radicale, e chiaramente le diete radicali fanno male, quindi noi non vogliamo farla. Però faccio un esempio: prendiamo tre spese, diciamo, che tutti noi nelle nostre famiglie abbiamo, con un obiettivo: cercare di capire quanto valgono queste spese in un orizzonte di lungo periodo. Pensiamo a una famiglia che ha madre, padre, due figli, ci sono tre cellulari in famiglia, i due genitori più il figlio più grande, ipotizziamo che si spenda, non so, 30 euro al mese per ognuno di questi cellulari. Ipotizziamo che ci siano tre riviste mensili, mm-hmm, e che si vada fuori a mangiare magari una pizza un paio di volte al mese. In un contesto di questo genere, facendo ovviamente dei calcoli, la cifra spesa nell'arco di un trentennio è superiore ai 70.000 euro, solo con questi tre comportamenti. Mm-hmm. La cosa interessante è che in realtà questa stessa spesa investita in un piano di accumulazione finanziaria può arrivare a produrre anche 150.000 euro di rendimento. Non di rendimento, scusate, di valore finale. Quindi, ecco, chiaramente con delle ipotesi, con delle stime. Però qui è importante il concetto generale, cioè non bisogna rinunciare a tutto per mettersi in forma. Bisogna fare le cose fatte per bene, passo dopo passo, in modo molto equilibrato. Ecco, la cosa però importante è essere consapevoli. Quindi sapere che le nostre abitudini, qui lancio un'altra idea, che è quella delle spese dimenticate. Chi di noi, io personalmente sono in questa situazione, chi di noi non ha almeno, non so, una spesa che dice: ma c'ho quell'abbonamento a quella rivista che non guardo più. Ce l'ha già confessato quello della palestra, per cui può anche ridirla oggi. Purtroppo la palestra è un esempio di bias comportamentale. Guardi, tanto in questa situazione dopo. Si ritroveranno in molti. In quanti in particolar modo lo sottoscrivono adesso l'abbonamento alla palestra? Per ritornare in forma, per fare questa dieta, diciamo, in sostanza in due mesi, per essere in forma la prossima estate. Anche lì, come dire, la questione dell'avere subito un risultato, no? Si può fare un parallelo molto efficace anche con le questioni finanziarie. Ma anche c'è un meccanismo nella finanza che è quello di rimandare sostanzialmente, quindi di dire: ok, lo farò domani sostanzialmente. Questo è molto importante da cercare di superare. Perché? Perché il tempo ha un valore. Se io ho 10 anni a disposizione per raggiungere una progettualità importante, non è indifferente partire oggi o partire fra 2 anni o fra 5 anni. Se parto fra 5 anni potrei non riuscire a raggiungere quell'obiettivo. Se parto subito, invece, posso avere a più piccoli passi la possibilità, mm-hmm, di farlo. Allora, mettiamoci bene in testa questi due nuovi concetti che abbiamo introdotto oggi: quello della dieta finanziaria e quello delle spese dimenticate. Quando ritornerà dottor Pennacchia faremo due focus molto specifici su questi due argomenti. Nel frattempo direi che possiamo sentire gli ascoltatori, fare un altro test col professor Iannoccari, ma soprattutto adesso è il momento del nostro quizettone. Mi travesto questo mi travesto indegnamente da un Mike Buongiorno della situazione, anche se poi la domanda, siccome il tema lo ha lanciato lui, la faccio fare ad Andrea Pennacchi. Allora, se avete ascoltato bene la prima parte di Cuore e Denari, avrete preso nota anche di questo concetto. Se volete un libro di Cuore e Denari, ve lo dovete meritare. Rispondete correttamente a questa domanda. Allora, Deborah, facciamo questa domanda. Supponiamo che l'età media dei nostri ascoltatori in questo momento sia più o meno di 45 anni. Più o meno la nostra, diciamo, di quelli che appartengono a questo studio stamattina. Per dire 45 o 50 anni, quello che è. Insomma, comunque 45 anni ipotizziamo. Ecco, secondo quanto ci siamo detti finora, sì, qual è l'orizzonte temporale a cui guardare in una pianificazione finanziaria che deve coprire i nostri obiettivi di lungo periodo? Allora, domanda è complicata, ma in realtà noi nella prima parte, prendendo a spunto anche dal caso dell'ascoltatrice da Palermo che ci ha chiamato, un'età media interessante l'abbiamo fornita, certo. Per cui se avete preso in considerazione attentamente i temi della prima parte, vi ricorderete anche la cifra che abbiamo dato. 800 24 00 24, numero verde per rispondere al nostro quizzettone, ma anche per intervenire sul tema, che mi rendo conto è molto vasto quello che stiamo affrontando questa mattina. Potremmo andare avanti per tutto il pomeriggio per trattarlo adeguatamente. Sentirei Luca da Roma e poi col professor Ian Noccari il nostro nuovo test per allenare la mente, esercizi per aiutarci a risparmiare. Luca, buongiorno, mi scusi se l'abbiamo fatto aspettare un po', ma volevo ribadire un po' certi temi con Andrea Pennacchia. Ci dica tutto. Dunque, niente, io facevo semplicemente notare, prima si parlava di una opportunità di 100 euro subito o 110, tra un mese. 10 euro ogni mese in più, sì. Infatti. E poi si faceva l'esempio dopo 10 mesi, di, diciamo, dare una fisicità a questi soldi e immaginare un oggetto in più da avere tra 10 mesi, per rendere. Io ho pensato che sicuramente per una persona media va benissimo questo esempio, però forse sarebbe più opportuno pensare, proprio visto che c'è l'analogia con la dieta, ha del cibo proprio in più da avere a disposizione, per esempio per un figlio in arrivo, nel senso il discorso dell'oggetto rientra più in un'ottica proprio di consumismo. Allora Luca, lei probabilmente, forse perché ragiona ed è abituata a ragionare su questi argomenti, non dico che abbia considerato un po' banale il nostro esempio, però Luca credo che sia già oltre. Il tema è che molte persone in realtà non ragionano neanche sul tema 100 subito oppure 10 accumulati mese per mese, no Andrea Pennacchia? Certo. Allora, prima è stato fatto ovviamente un esempio molto così anche radiofonicamente efficace, molto, ecco, molto semplice. E il signor Luca ha molto ragione. In realtà, quando parliamo di investimenti, quello che è anche emerso dalla nostra analisi è una richiesta molto forte da parte degli intervistati di avere qualcuno che li affianchi e li aiuti proprio a mettere a fuoco questi progetti, perché è difficile quantificarli e non sempre si ha quell'allenamento a fare le giuste valutazioni. Certo. Quindi quello che dice il signor Luca è molto vero, bisogna avere una chiarezza in mente di quelli che sono i propri progetti di vita importanti, che chiaramente possono, normalmente i più importanti sono il mantenimento del tenore di vita, l'educazione dei figli, l'acquisto di una casa, sono cose che tutti noi abbiamo nel nostro DNA, quindi è assolutamente vero, bisogna focalizzare bene questi progetti. E quello che noi vediamo, ma lo vediamo anche nelle relazioni con le nostre reti distributive, che diciamo noi cerchiamo sempre di aiutare anche con questi elementi ulteriori, che effettivamente c'è un grande valore nell'investitore finale quando riesce a incontrare uno specialista, un consulente che lo aiuta a ragionare e a focalizzare meglio questi punti. Mi ha dato peraltro anche un buon tema da segnalare ai nostri ascoltatori, che molto spesso ci chiedono, abbiamo parlato molto anche con Nicoletta, come faccio a scegliere un buon consulente finanziario che mi aiuti anche non solo nella scelta di strumenti di investimento adeguati, ma che mi accompagni adeguatamente in questi percorsi che sono lunghi. Ecco, quando un buon consulente ti fa delle domande precise su questi argomenti e non cerca chiaramente subito di darti una soluzione di investimento, direi che già quello è un buon test per il consulente. Assolutamente sì, devo dire che l'industria da sempre ha investito, ma moltissimo, in questi temi. Molto spesso le relazioni sono relazioni veramente di lungo periodo. Molto spesso chi si affianca, o come gestore bancario o come consulente finanziario, è una persona che molto spesso non voglio dire che è un amico, ma comunque molto spesso è veramente una persona molto vicina ai propri clienti. Ecco che è un percorso che si costruisce nel tempo, però sicuramente ragionare non solo nell'ottica di un rendimento, ma partire da quello che è il proprio profilo di rischio, capire bene cosa si può mettere a rischio del proprio patrimonio per capire come investirlo per avere un rendimento adeguato. Ecco, è importante avere un grande equilibrio da questo punto di vista e una grande prudenza. Andiamo al nostro esercizio, professor Iannocari, perché qua stiamo facendo crescere la suspense per gli ascoltatori che si divertono molto a cimentarsi. E abbiamo avuto anche, diciamo, altri argomenti da aggiungere al nostro, diciamo, alla nostra mattinata già molto ricca, perché si è partiti dallo spunto dei 100 euro, che era un test per capire qual è la nostra propensione a rimandare la gratificazione, addirittura alla pianificazione, per cui abbiamo iniziato a considerare questi 100 euro non come qualcosa da prendere o da lasciare per un po' di tempo, ma come una somma che può essere utilizzata, destinata ad un qualcosa nel futuro, per cui anche l'argomento pianificazione rientra a pieno titolo nell'ambito degli investimenti. Quindi si è arricchito ancora di un pezzo, poi ci metterei anche la memoria, perché bisogna ricordarsi di avere le spese dimenticate, abbiamo parlato. Le spese dimenticate, esatto, ma anche ricordarsi quelli che sono gli obiettivi futuri, perché molte volte le persone dimenticano perché stanno facendo un sacrificio, no? Che noi non vorremmo fosse un sacrificio, ma una pianificazione sensata a proprio vantaggio. Ma le persone a volte dimenticano perché il nostro meccanismo mentale vuole che a fronte di un atteggiamento dove dove ci mettiamo qualcosa ci sia anche un ritorno immediato. Va bene, quindi questo meccanismo va rinforzato. Io credo che questa debba essere una considerazione che chi si occupa di investimenti, di programmi di risparmio debba tener conto, perché pensare di vedere qualcosa a distanza di 10-20 anni per l'utente medio è una condizione mentalmente difficile. Credo che in questo saranno bravissimi nel proporre invece mensilmente, ogni 6 mesi, ogni anno, qual è l'andamento per far vedere quali sono gli incrementi. Sì, certo, beh, prospetti informativi e comunque gli estratti conto finali dei piani di investimento ci sono, ma forse va fatto un lavoro di spiegazione in più rispetto ad una fredda rappresentazione dei numeri, dei risultati, dei rendimenti, no? Pennacchia velocemente, stiamo vedendo un aspetto che è importante, che è quello dell'accumulazione del lungo periodo. Non dimentichiamo la diversificazione, che è un altro elemento molto importante, infatti. La scelta tra virgolette anche del timing, per questo emerge in modo molto chiaro l'importanza di avere qualcuno che ci affianchi su queste scelte. Allora vi dico che abbiamo un minuto e mezzo di tempo prima dei saluti, l'esercizio, poi la risposta al quizzettone. Mi è sfuggita completamente di mano la puntata, ma ne sono ben contenta, perché i temi affrontati speriamo di aver aiutato molti ascoltatori a fare una bella fotografia di sé, di come saranno nel futuro. Iannocari, il test. Allora, dobbiamo allenare la memoria a lungo termine per ricordare i nostri obiettivi. Ogni mattina nascondiamo in casa, ogni mattina in un posto diverso, una moneta da 1 euro o una banconota da 5 euro, da 10 euro, come preferiamo. La sera, dopo cena, dobbiamo recuperarla, quindi dobbiamo ricordare dove l'abbiamo messa la mattina. Incredibile. Una volta recuperata la inseriamo in un bel salvadanaio, che poi daremo ai nostri investitori. Ecco, se dimentico di fare l'esercizio, però attenzione, perché devo pagare pegno e metto la moneta che avevo conservato più una multa che posso quantificare in 1 euro, in 5 euro, pure, cioè la penale, sempre ci abbiamo la penale, sempre nel nostro salvadanaio. Questo ritengo sia un ottimo modo per allenare la memoria, se vogliamo anche per risparmiare, vero? Bravo, lo risintetizziamo sul nostro profilo Facebook dopo questo test. Rapidamente, Antonio da Pisa, la risposta al nostro quizzettone, veloce veloce, che stiamo chiudendo. 82 era. Era 82, Antonio, sì, è corretto, esatto. Grazie. Le daremo un libro sia di cuore che di denari per gratificarla. Non abbiamo tempo di farla scegliere. Grazie ad Andrea Pennacchia per essere stato con noi, professor Iannocari. È stata una gran bella puntata. Vi rimetteremo insieme molto presto, perché il test che abbiamo fatto uno di cuore e denari è riuscitissimo. Buona giornata a tutti, a domani. Martedì 21 e giovedì 23 aprile, design e innovazione si incontrano con Maurizio Melis. Il conduttore di Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, vi aspetta per 2 serate esclusive dal Temporary Store Audi di via Monte Napoleone 27C a Milano. Per partecipare, compila il form su radio24.it.